l'Associazione Culturale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femmes, women, mulieres, frauen, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream. And they spread themselves before me, an offering so sweet. And they beckoned, and they beckoned, come on, darling, eat. La tratta di esseri umani, documentata in 175 nazioni, mette in luce le debolezze del capitalismo globale e la disparità provocata dalle regole economiche dei paesi più potenti, ma soprattutto evidenzia come la crudeltà umana e i processi culturali che l'hanno rafforzata siano diventati un fenomeno ordinario. Ogni anno nel mondo 1.390.000 persone, nella stragrande maggioranza donne e bambine, sono ridotte allo stato di schiave sessuali e comprate, vendute e rivendute come materia prima di un'industria, come scarti della società, come omaggi e trofei. La sofisticazione dell'industria sessuale a livello mondiale ha creato un mercato che molto presto supererà il numero di esseri umani venduti all'epoca della schiavitù africana dal XVI al XIX secolo. Lidia Cacio in Schiave del potere, una mappa della tratta delle donne e delle bambine nel mondo. Hello, hello, planète Terre, planète en détresse, petit homme surmené au milieu des SOS. Petit homme n'entend plus même son propre mal-être. Il court pour oublier qu'il s'est oublié dans le paraître. Hello, hello, j'en presse les nerfs à l'enfer, qui prône un royaume qui ressemble à l'enfer, prêt à mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme. Il libro di cui ci stiamo occupando non è un romanzo o un racconto di fantasia, ma il frutto di 5 anni di investigazioni, spesso anche molto pericolose, sulle operazioni delle piccole e grandi mafie internazionali. Durante questi 5 anni Lidia Cacio si è confrontata con le vittime della tratta, ma anche tenutarie di bordelli, sex workers, mafiosi, poliziotti, informatori, giornalisti, eccetera, riuscendo a ricostruire le trame dello sfruttamento globale dell'industria del sesso. L'inchiesta di Lidia Cacio attraversa varie nazioni e culture: Turchia, Israele e Palestina, Giappone, Cambogia, Birmania, Argentina, Messico, Europa e Stati Uniti. Ci teniamo a dire questo perché riteniamo importante non confondere le opinioni personali con inchieste che approfondiscono il tema dello sfruttamento sessuale da tutte le angolazioni possibili e attraverso tutti i soggetti coinvolti, e contribuiscono alla conoscenza di una realtà complessa e articolata, troppo spesso celata dal potere istituzionale, che ha tutto l'interesse alla prosecuzione dello sfruttamento di donne e bambine, ed è proprio per questo che l'inchiesta di Lidia Cacio è stata non priva di frustrazioni e pericoli, dice la giornalista. Nel mio percorso dal Messico fino all'Asia centrale mi sono camuffata assumendo false identità. Grazie a questi accorgimenti mi sono potuta sedere a bere un caffè insieme a una trafficante filippina in Cambogia. Ho potuto ballare in un locale notturno fianco a fianco con ballerine cubane, brasiliane e colombiane in Messico. Entrare in un postribolo di minorenni a Tokyo, in cui tutti sembravano personaggi usciti dalle pagine di un manga, e camminare vestita da novizia nelle vie della Merced, uno dei quartieri più pericolosi di Città del Messico, controllato da potentissimi trafficanti. Il comune denominatore delle diverse forme di sfruttamento sessuale di donne, bambine e bambini è la cultura maschilista e patriarcale, che intende le donne come oggetti e in quanto tali attribuisce loro un valore economico, che è anche un valore sociale e culturale.

In Turchia la prostituzione è legale e lo Stato, che ricava grandi introiti dai bordelli legalizzati, si impegna molto affinché la tratta rimanga nell'ombra e non se ne parli in riferimento ai propri bordelli. C'è da dire però che, nonostante l'aumento della tratta nel resto del mondo, diminuisce il numero di donne fatte entrare in Turchia da Russia, Moldavia, Georgia, Kirghizistan e registrate dalla polizia turca. In Turchia sono registrate 1000 lavoratrici del sesso. E poi ci sono le straniere nei bordelli illegali, che oggi sono quasi 100.000. La Turchia da un lato sottoscrive trattati internazionali sui diritti umani e dall'altro nasconde per interesse economico la realtà del fenomeno della tratta all'interno del proprio paese e di conseguenza non adotta strumenti di lotta al fenomeno. Questo, sostengono in molti, accade laddove i governi regolamentano la prostituzione, laddove c'è interesse a che non sia chiara la distinzione tra tratta e prostituzione volontaria. E questa distinzione non sarà mai chiara laddove ci sono interessi economici e politici. Nel suo viaggio in Turchia, Lidia Cacio viene messa in contatto con un informatore che fa parte della polizia locale che si occupa di tratta, secondo il quale i capi della polizia e l'esercito considerano la prostituzione come un'attività commerciale della quale sono loro stessi i clienti. Ritengono che a chiamarla schiavitù sessuale siano gli americani e qualche europeo del nord. E ancora, il riferimento al ruolo che gioca il governo nella regolamentazione della prostituzione che va a sostegno della tratta. Da quando i paesi che si definiscono civilizzati hanno deciso di combatterlo, questo crimine è diventato un affare più lucroso per tutti: trafficanti, i produttori di pornografia e quelli che semplicemente vendono falsi sogni alle donne. L'arrivo dei mercanti della guerra in Iraq e in Afghanistan ha reso il traffico di droghe, armi e donne un affare più conveniente. Secondo il poliziotto, nei bordelli sono state trovate ragazze di 16 anni entrate nel paese da quando ne avevano 14, con documenti autentici ma illegali. Secondo Lidia Cacio, nel mondo sono molti funzionari che si prestano a fare certificati falsi. Secondo l'ECPAT, Organizzazione per l'eliminazione della prostituzione infantile, la pornografia infantile e la tratta di bambini a scopi sessuali, il 16% delle vittime della tratta liberate in Turchia è minorenne. Inoltre, secondo rapporti di Save the Children, nei paesi in cui la prostituzione è legale, molti pedofili chiedono asilo trasformandosi in clienti fissi del mercato dello sfruttamento sessuale dell'infanzia. Il turismo sessuale negli ultimi anni in Turchia ha subito un forte incremento di pari passo con l'apertura di questa economia al mercato globale. La maggior parte dei turisti sessuali, secondo i dati forniti a Lidia Cacio dal suo informatore, sono prevalentemente russi e turchi, ma anche un gran numero di norvegesi e di svedesi si reca in Turchia ogni anno a fare turismo sessuale, perché nel loro paese non è legale e non lo possono fare. Il turismo sessuale funziona lì, come in qualsiasi altra parte del mondo, allo stesso modo: alberghi a 5 stelle in cui i clienti facoltosi si procurano cold girls a tariffe elevate, località turistiche e militari che attraggono e incrementano da sempre la prostituzione. E questo avviene grazie alla legalizzazione della prostituzione, al punto che adesso lo Stato turco è gestore di bordelli. Quella del sesso è infatti percepita come un'industria, non come un'attività criminale. Lo schiavismo richiede infatti l'esistenza della prostituzione legale affinché sia sempre più difficile distinguere che cosa sia legale e che cosa no. Ecco perché in Turchia, come in altri paesi, ci sono tante persone interessate a regolarizzare la prostituzione. Afferma l'informatore: i clienti in maggioranza sono turchi, i trafficanti turchi o stranieri. Il commercio della prostituzione genera grandi, grandi guadagni. I turisti arrivano sulla costa a frotte e a Istanbul a migliaia in cerca di piacere e chiaramente fanno anche il giro delle meraviglie storiche del paese, che sono molte. Purtroppo c'è chi viene per le bambine. In un rapporto del Protection Project, istituto di ricerca e assistenza, viene rilevato che in Turchia esistono con certezza 200 bande dedicate al traffico di donne e bambini, e allo stesso tempo i dati diffusi dalla OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, dicono invece che dal 99 al 2010 sono state soggette a traffici di vario genere 250.000 persone, e nella maggior parte dei casi si parla di donne provenienti dall'Azerbaigian, Georgia, Armenia, Russia, Ucraina, Montenegro, Uzbekistan, Moldavia. Di contro, le autorità turche ne hanno individuate ufficialmente tra il 2003 e il 2008 solo 994. Secondo 12 organizzazioni di volontariato turche, i casi documentati di ragazzine rapite da orfanotrofi dalla Romania e vendute in Turchia sono innumerevoli. Infine, l'ingresso della Turchia nella NATO e la sua partecipazione massiccia nella compravendita di armamenti nucleari e militari, tanto da renderla attualmente il paese più armato d'Europa e il secondo paese dopo gli Stati Uniti, ha contribuito a renderla un terreno ideale per le mafie coinvolte nella vendita di armi e di schiave sessuali. I militari, secondo le schiave sessuali provenienti dai Balcani, intervistate da Lidia Cacio, sono i clienti migliori dei 1000 postriboli legali e illegali presenti nel paese. Grosso modo, la cifra impiegata per acquistare un'arma o una donna è la stessa, con la differenza che una schiava può essere rivenduta dopo essere stata utilizzata, a differenza della droga o delle armi. Il commercio della prostituzione risulta dunque ben più lucroso di quello delle armi e della droga. Ay, qué bonito es volar. Y a las dos de la mañana. Y ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me siento en sus piernas, me da de besito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve, ni ando en pretensiones de chupar de usted. Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar, y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo, y ahora le vas a chupar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve, que no hay pretensiones de chuparme usted. Un esempio di quello che stavamo dicendo è la storia di Matilde Manukian, una tenutera di bordelli, 32 per la per la precisione, che fu segnalata diverse volte per sfruttamento sessuale di bambine, ma i suoi rapporti con le autorità le assicurarono l'impunità, anzi fu addirittura premiata per aver pagato più imposte degli altri cittadini dal 1900 al 1995. Fu solo però nel 1996 che si riuscì a dimostrare pubblicamente lo sfruttamento di bambine nei suoi bordelli. Ulla fu una di queste bambine che dai 16 ai 20 anni è stata costretta a prostituirsi in uno dei suoi bordelli e racconta così la sua storia. A quei tempi credevamo che ci trattassero bene. Sentivamo parlare di altre ragazzine portate in luoghi spaventosi come vere e proprie schiave. Quelle storie ci terrorizzavano. Si diceva che gli uomini lì fossero brutali e pagassero le ragazze in centesimi, che soffrissero di strane malattie e che alle donne fosse proibito lavarsi e avere cura di sé. Noi eravamo sempre in ordine, pulite, ci pagavano poco e a volte ci punivano. Alcuni frequentatori erano sceni e violenti, ma faceva parte del lavoro. Io fui comprata da un cliente a 20 anni, ero già considerata vecchia, che mi portò a Londra, dove sono rimasta svariati anni da clandestina. Tra l'altro ero anche tossicodipendente. Poi riuscii a trovare aiuto in altre donne e ho cambiato vita. Se mi guardo indietro capisco di essere stata una schiava sessuale, ma allora non riuscivo a rendermene conto. La realtà, quando non hai via d'uscita e sei sola, è meglio non vederla. Ti limiti a viverla e a evitare di pensare troppo. Mi dicevo, che cosa c'è di male se vendo il mio corpo, dal momento che è l'unica cosa che posso vendere? Non si poteva scappare perché in Turchia i bordelli sono legali. I clienti migliori erano i poliziotti e i politici. Tenevano talmente da conto la padrona che mandavano le loro infermiere a visitarci, perché si presumeva che fossimo le prostitute più sane e obbedienti di tutta la Turchia. Dunque, la storia di Matilde Manukyan è emblematica di come si possa entrare all'interno del traffico di schiave sessuali in modo perfettamente lecito, fino a diventare addirittura personaggi stimati e di un certo prestigio sociale. Il denaro guadagnato attraverso il traffico delle minori ha consentito a Manukyan di possedere 3 alberghi a 5 stelle, 120 appartamenti, una ditta di esportazione e un'impresa di autonoleggio con un autista con 300 modelli di auto, tra cui Rolls Royce, Mercedes e BMW. Aveva anche un albergo in Germania e possedeva un mega yacht in cui ospitava i suoi amici potenti. Il caso di Matilde è per Lidia Cacio importante perché spiega cosa succede quando prostituzione e tratta si incrociano, quando gli interessi individuali si spingono fino a determinare in modo orribile il presente e il futuro di una bambina o di un adolescente. Matilde Manukyan è diventata ricca sulla pelle di tante donne e bambine. خطواتها على تراب فلسطين وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين كانت ساراي تدرج أولى خطواتها على تراب فلسطين وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين غفلها القناص بطلقة في الرأس في رأس سارة الصغير غفلها القناص بطلقة في الرأس في سارة الصغير سارة ساراي سارة ساراي Vediamo ora cosa accade in paesi come Israele e Palestina e di come la questione della guerra incrocia quella della prostituzione. In Palestina Lidia Cacio incontra Rim Banna, musicista e poeta palestinese sostenitrice dei diritti delle donne, che suggerisce una similitudine molto interessante tra tratta di donne e bambine e occupazione militare. Il mondo non capirà mai la vera storia finché non si renderà conto che non si può risolvere un conflitto in presenza di una tale disuguaglianza in termini di potere, denaro, armi e idee. Finché la voce dei patriarchi sarà appannaggio di una parte sola, finché esisteranno quelli che comandano e altri costretti a obbedire, a sottomettersi, a prostituirsi nell'anima e ad accettare la colonizzazione, soltanto perché sono appunto gli altri. Rim Banna dice chiaramente che occuparsi di violenza contro le donne è molto difficile nel suo contesto. Infatti i gruppi femministi che si occupano di soccorrere le donne agiscono di nascosto. La guerra ha incrementato il rischio per le donne e le bambine di essere rapite e rivendute. La discriminazione nei confronti delle donne in Palestina fa parte dell'assetto culturale. Basti pensare ai matrimoni legali organizzati da Hamas, in cui uomini di età che varia dai 25 ai 30 anni contraggono matrimonio con bambine di 10 anni. In Israele, invece, dove la separazione tra ortodossi e liberali è più netta, è molto più frequente lo sfruttamento sessuale e la prostituzione forzata di donne e bambine, generalmente non ebree. E in questo l'alterità gioca un ruolo fondamentale. Tanto più un paese è religioso e conservatore, tanto più è disposto a chiudere un occhio sullo sfruttamento di donne e bambine appartenenti ad altri gruppi etnici o religiosi. L'impossibilità di indagare sulla sparizione e la prostituzione forzata di donne e bambine aumenta quanto più polizie e militari sfruttano il discorso della moralità religiosa e dell'odio razziale che proviene loro dalla misoginia e dal sessismo, per mantenere la questione sommersa e difficilmente indagabile. Lidia Cacio, in Palestina, ha seguito le vie del traffico delle donne tracciate dall'organizzazione SAWA, che si occupa di vittime di violenza domestica e che ha pubblicato uno studio sul traffico e la prostituzione forzata delle donne e delle bambine in Palestina. In questo studio è stata raccontata la storia di un piccolo albergo trasformatosi in bordello. La maggior parte dei suoi clienti erano uomini del luogo e alcuni erano rappresentanti dell'autorità. Nel bordello c'erano 14 tra adolescenti e donne tra i 14 e i 28 anni, introdotti dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania a Gerusalemme Vecchia. Durante il giorno erano costretti a lavorare come mendicanti e la notte a prostituirsi. 200 shekel servivano per l'utilizzo della camera. Il cliente poi pagava alla tenutaria un prezzo a parte per la bambina o la donna, in base al valore che il cliente stesso attribuiva alla sua esperienza o bellezza, tra i 30 e 200 shekel. Il proprietario fu arrestato e condannato per gestione di postribolo. L'indagine durò 8 ore. Le donne e le adolescenti furono deportate perché si trovavano a Gerusalemme senza i permessi rilasciati dal governo israeliano. Ovviamente il caso non fu registrato come tratta di esseri umani. Yeah. Tecniche utilizzate dai trafficanti per reperire donne e bambine sono sempre molto simili nei diversi paesi. Molto spesso le bambine e le donne vengono vendute da familiari o da persone conosciute. I bordelli sono spesso diretti da donne e le donne e le bambine vengono minacciate in continuazione. In particolare le si minaccia di mostrare le foto scattate durante gli stupri iniziatici ai familiari. Il tema dell'onore delle famiglie è molto efficace, poiché essere svergognata di fronte alla comunità sta a significare la morte sociale e civile. Nonostante non ci siano dati che dimostrano che le mafie siano coinvolte nella tratta di donne e bambine in Palestina, ci sono ragioni sufficienti per ritenere che i conflitti armati siano i luoghi ideali per commettere abusi su minori. Basti pensare ai bambini soldato e alla prostituzione forzata di bambini e adolescenti destinate alla soddisfazione dei bisogni dei soldati. Le bambine palestinesi non sono informate dei pericoli inerenti al conflitto, non vengono informate del pericolo di essere rapite e vendute, ma viene detto loro come evitare le mine antipersona, di come rispettare gli anziani del proprio paese o di come comportarsi di fronte a un posto di blocco. La situazione di conflitto unita al sessismo contribuiscono a rendere le bambine incapaci di difendersi. Un altro dato che emerge dallo studio di Sawa è che molte donne adolescenti cadute nella prostituzione sono scappate da situazioni di violenza familiare, per cui le adolescenti allontanate da questi contesti hanno trovato come unico mezzo di sussistenza la prostituzione e i trafficanti sono perfettamente a conoscenza di questa dinamica. Le bambine e le adolescenti in molti paesi vengono vendute dalle proprie famiglie ai loro sfruttatori e qualora le violenze sessuali subite richiedano l'intervento delle autorità e quest'ultime attestino la perdita di verginità da parte delle vittime, il tribunale spesso stabilisce che queste debbano andare spose ai loro sfruttatori poiché hanno perso il loro onore. È un caso di questo genere si è verificato anche nei territori occupati, nella località di Tulkarem, Ultimamente però molte cittadine iraniane, afghane hanno denunciato le condizioni delle spose bambine, quelle di essere cioè schiavi sessuali e domestiche. Perché questa pratica contro le donne e le bambine sia comune in molti paesi? Nel caso della Palestina, la condizione di occupazione militare nei campi produce un'assenza di controllo che rende lo sfruttamento e i maltrattamenti di donne e bambine allarmanti e allo stesso tempo molto difficili da documentare. Questo accade perché Israele, come molti stati oggi, adotta una doppia morale nei confronti della prostituzione. Da una parte l'attacca, accappando scuse di moralità e decoro. Dall'altro, pur perseguendo la prostituzione coatta, concede permessi per aprire bar e locali in cui si esercita la prostituzione di donne maggiorenni provenienti dalla tratta di schiave. In Israele lo sfruttamento di donne e bambine è occulto anche, è occultato anche dalle cifre truccate che nascondono i reali dati sulla tratta e che sono fornite da poliziotti e autorità di pubblica sicurezza e la cui veridicità non viene mai messa in discussione dagli organi preposti a combatterla. Siamo arrivate alla fine della trasmissione. Vi ricordiamo che se volete condividere le vostre riflessioni su quanto detto stasera o su qualsiasi altra cosa, potete scriverci all'indirizzo connettive@gmail.com. Ripeto, connettive@gmail.com. Per approfondimenti in merito, vi consigliamo invece di visitare il sito www.consumabili.blogspot.it. www.consumabili.blogspot.it, che si occupa dell'industria globale del sesso ed analizza a fondo il lavoro di Lidia Cacio. In questa puntata vi ricordo che abbiamo ascoltato in apertura una canzone della rapper francese originaria di Marsiglia e militante del movimento di disobbedienza civile delle banlieue marsigliesi, Kenny Arcana, intitolato Jean Pressé. E le ultime due canzoni invece che abbiamo ascoltato erano di Rim Banna, si intitolano Sara e The Grandma with Limp. Rim Banna è una cantante musicista e attivista israeliana per la causa palestinese. E le sue canzoni fanno riferimento alle sofferenze del popolo palestinese causate dall'occupazione israeliana. Lidia Cacio cita il suo lavoro e il suo impegno contro la schiavitù sessuale proprio nel secondo capitolo del libro di cui vi abbiamo parlato. Abbiamo inoltre ascoltato di Lila Downs, La Bruja. E niente, ora ci salutiamo e vi diamo appuntamento tra 4 settimane, sempre con la nostra rubrica Contro Essenze. Grazie e buona serata. Come together, free. Everybody, get together, free. It's okay if you can't stand to let her dance. It's okay. Right, come on and take a chance. A true romance when you dance. Free. Don't be in love with the autograph. Just be in love when you scream that song. Don't be in love.